Anima Jazz, un programma di jazz tradizionale e contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera, buonasera a tutte le mie ascoltatrici e miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci, siete all'ascolto di Anima Jazz numero 690. Stasera partiamo subito con del buon jazz italiano e iniziamo subito con un trombonista, si tratta di Andrea Andreoli. Andrea Andreoli è un giovane valido trombonista che ha realizzato per la Ultra Sound Records un bel CD intitolato Don't Give Up e l'ha fatto insieme ad Alessandro Bottacchiari alla tromba, Antonio Vivenzio al pianoforte e poi Sandro Massazza al contrabbasso e Vittorio Marinoni alla batteria. Stasera noi da questo bel CD ci potremo ascoltare una composizione originale, ed è proprio il pezzo che apre l'album intitolato Kepler. Buon ascolto quindi con Andrea Andreoli. Thank you. Bene, ci siamo ascoltati Kepler, il pezzo di apertura del CD Don't Give Up, pubblicato dalla Ultrasound Records. In questo CD Andrea Andreoli è al trombone, insieme ad Alessandro Bottacchiari alla tromba, Antonio Vivenzio al pianoforte, Sandro Massazza al contrabbasso e Vittorio Marinoni alla batteria. Un pezzo, questo, che ci siamo appena ascoltati in piena chiave mainstream, con delle belle aperture che in certi momenti fanno quasi ricordare certe big band, certe grandi orchestre. Una bella orchestrazione piena, compiuta e sicuramente godibile tutto il CD, con delle belle composizioni che alludono anche a istanze contemporanee, quindi c'è una bella alternanza di pezzi, ogni pezzo è una storia a sé, è un viaggio particolare, quindi rende l'ascolto molto interessante. Lasciamo il trombonista Andrea Andreoli ed andiamo avanti con un CD che ci viene dalla ECM. Il maestro è Thomas Strönen, che ha realizzato questo CD intitolato Time is a Blind Guide. È un CD che vede Thomas Strönen insieme a Keith Downs al pianoforte, Haakon Haas al violino, Lucy Railton al violoncello, Ol Morten Wagen al contrabbasso, Siv Oyun Kienstad alle percussioni e Steiner Mossig alle percussioni. Noi stasera da questo bel CD ci andremo ad ascoltare una composizione originale, il cui titolo è I Don't Wait for Anyone. Buon ascolto quindi con la musica di Thomas Strönen e il suo ensemble. Thank you. Bene, questa era la musica di Thomas Strönen, batterista e compositore che ha realizzato un bel CD per la ECM intitolato Time is a Blind Guide e l'ha fatto insieme a Kid Downs al pianoforte, poi Akon Haas al violino, Lucy Railton al violoncello, Ole Mortenwagen al contrabbasso, Siv Oyun Kienstad alle percussioni e Steinar Mossig alle percussioni. Un CD come ricorda le atmosfere tipiche della ECM, questa casa discografica tedesca che ha molto a cuore certe ambientazioni ampie, nello stesso tempo anche le tipiche ambientazioni nordiche con della pacatezza che non appartiene per esempio alla musica mediterranea o la musica sudamericana e nemmeno quella americana. Ma in questo pezzo, come avete sentito, seppur la partenza sia appunto in quest'ottica, con i silenzi, con certa pacatezza, sempre seppur nell'eleganza, nella raffinatezza, però c'è un finale in crescendo dove soprattutto la sezione ritmica sostiene fortemente con una certa energia anche gli assoli degli altri strumenti e quindi affiora una certa forte energia. Thomas Strönen dal CD Time is a Blind Guide pubblicato dalla ECM. E adesso andiamoci ad ascoltare Trio Immaginario. Il Trio Immaginario ha realizzato un CD che si intitola Danze d'autunno. Il trio è formato da Roberto Bindoni alle chitarre e all'elettronica, Matteo Cuzzolin al sax e Nelly De Bandello alla batteria e tutte le composizioni sono di Roberto Bindoni. Noi stasera ci potremo ascoltare appunto una composizione originale intitolata Regular and Goofy, tratta appunto da questo CD Danze d'autunno. Buon ascolto con Trio Immaginario. Thank you. Ci siamo ascoltati Trio Immaginario formato da Roberto Bindoni alla chitarra e all'elettronica, Matteo Cuzzolin al sax, Nel De Bandello alla batteria. Il CD che hanno pubblicato è intitolato Danze d'autunno e noi ci siamo ascoltati una composizione originale di Roberto Bindoni intitolata Regular and Goofy. Una composizione, come avete sentito, che vive di un particolare equilibrio tra le istanze della contemporaneità, della ricerca ed il rispetto per la grande tradizione dalla quale viene questa musica, la grande tradizione del mainstream del jazz, per cui non si rinnega questa origine e nello stesso tempo si afferma la presenza nel proprio tempo. Musiche particolari di una certa raffinatezza, di una certa eleganza, vissute sempre con una bella concentrazione, sono composizioni sempre bisognose di una grande di un grande feeling di gruppo per essere vissute con quella poesia e con quella caratterizzazione che è la tipica ambientazione di Trio Immaginario, veramente un equilibrio molto interessante, molto elegante, che non fa altro che impreziosire il panorama jazzistico nazionale. Lasciamo Trio Immaginario ed andiamo ad ascoltare Pensiero Nomade, altro gruppo molto interessante che ho avuto il piacere in varie trasmissioni anche del passato di promuovere, in particolare un gruppo anche questo che cerca di fondere istanze diverse, culture diverse musicali, approfittando del grande abbraccio che offre il jazz. Il gruppo è formato da Fabio Anile scusate, al pianoforte, al sintetizzatore, all'elettronica, Michela Botti alla voce, Davide Guidoni alla batteria, percussioni, Salvo Lazzara alle chitarre, chitarra elettrica, chitarra synth, basso, cura anche gli arrangiamenti e la programmazione. Andrea Pavoni al pianoforte, al sintetizzatore, al basso, alla chitarra, alla voce, gli arrangiamenti e programmazione. Luca Pietro Paoli alla tromba, all'elettronica. Alessandro Toniolo al flauto. Il progetto discografico di Pensiero Nomade è intitolato Da Nessun Luogo, pubblicato da Filibusta Records. Noi stasera ci potremo ascoltare proprio il pezzo che apre l'album, una composizione originale che si intitola Dove comincia il giorno. Buon ascolto quindi con il gruppo di Pensiero Nomade. Thank you. Bene, questa era la particolare musica del gruppo di Pensiero Nomade, il gruppo formato da Fabio Anile, Michela Botti, Davide Guidoni, Salvo Lazzara, Andrea Pavoni, Luca Pietropaoli e Alessandro Toniolo. Il CD è intitolato Da Nessun Luogo e noi ci siamo ascoltati la composizione originale che apre l'album, intitolata Dove Comincia il Giorno. Una musica, come dicevo prima, che si avvale delle plurie esperienze di questi musicisti che toccano radici e ampiezze vaste, dalla world music alla musica ambient, alla new age e con spruzzate di improvvisazione jazz. C'è questa fusione molto ampia che offre un'ambientazione quasi astratta, di leggerezza veramente molto particolare, che crea delle ambientazioni poetiche di notevole efficacia. Ricordo il titolo del CD, Da Nessun Luogo, pubblicato da Filibusta Records, Pensiero Nomade. E adesso proseguiamo con Gerard Presencer, un musicista inglese nato da una famiglia di musicisti e ha avuto l'occasione di suonare nel gruppo di Charlie Watts, che è il batterista, che ha anche una formazione come leader di jazz, e si è formato appunto in Inghilterra e poi ha vissuto anche negli Stati Uniti, ha avuto molte esperienze e con la big band della radio danese, Danish Radio Big Band, ha realizzato un bel CD intitolato Groove Travels, pubblicato dalla Edition Records, e noi da questo bel CD ci potremo ascoltare The Devil's Lurder. Buon ascolto con Gerard Presencer and the Danish Radio Big Band. Bene, questa era la musica di Gerard Presenter, che insieme alla Danish Radio Big Band ha realizzato questo CD intitolato Groove Travels, pubblicato dalla Edition Records, dal quale noi ci siamo ascoltati questa composizione originale intitolata The Devil's Ladder. L'esecuzione ci permette di evidenziare questa compiutezza musicale che è tipica delle grandi orchestre, ma nello stesso tempo anche una certa libertà d'esecuzione, una certa leggerezza molto positiva, molto dinamica, che Presenter è riuscito con la sua composizione e grazie anche alla professionalità dei musicisti della Danish Radio Big Band di mettere in pratica, rendendo scorrevole e molto dinamica tutta l'esecuzione. Veramente un bel pezzo, gradevolissimo, e così gradevole tutto il CD, che ricordo si intitola Groove Travels, pubblicato dalla Edition Records, Gerard Presenter and the Danish Radio Big Band. E adesso ritorniamo in Italia e ci ritorniamo con Luigi Blasioli. Luigi Blasioli per la 12 Lune Records ha realizzato un bel CD intitolato Sensory Emotions. Luigi Blasioli è un contrabbassista e compositore e ha vissuto questo progetto Sensory Emotions insieme a Pierpaolo Tolloso al sax, Christian Caprarese al pianoforte e Francesco Santopinto alla batteria. Quindi stasera noi ci potremo ascoltare l'esecuzione di una composizione originale intitolata Saimatica. Buon ascolto quindi con il Luigi Blasioli Quartet. Thank you. Ecco, questa era la musica di Luigi Blasioli, contrabbassista, compositore, ha guidato questo suo quartetto formato da Luigi Blasioli al contrabbasso, Pierluigi Tolloso al sax, Cristian Caprarese al pianoforte e Francesco Santopinto alla batteria, nell'esecuzione di questa saimatica tratta dal CD Sensory Emotions pubblicato dalla 12 Lune Records, con questa ambientazione vagamente latin, con questi ritmi. Tutti i musicisti si sono espressi anche con delle belle performance personali, ma sicuramente anche con un gradevolissimo feeling d'ensemble, veramente gradevole. Bello il gusto compositivo di questo pezzo, e sicuramente l'evidenza è quella di ottimi professionisti capaci di performance tecniche notevoli, nello stesso tempo anche di interpretazioni con ottima fantasia, creatività e sensibilità. Luigi Blasioli dal CD Sensory Emotions, pubblicato dalla 12 Lune. Adesso andiamo avanti con Fred Hirsch. Fred Hirsch è un pianista che ha realizzato in solo un CD proprio dal titolo Solo, e da questo CD noi ci potremo ascoltare la sua interpretazione di In Walked Bud. Buon ascolto quindi con Fred Hirsch in piano solo. Thank you. Questo era Fred Hirsch che ci ha fatto ascoltare in piano solo la sua interpretazione di In Walked Bud, tratta dal CD Solo, e come avete sentito la sua padronanza strumentale è notevole, un musicista sessantenne che anzi festeggia proprio il suo compleanno con questo concerto. Avete sentito, il pezzo era un live e la grande esperienza affiora in tutta questa esecuzione, un'esecuzione molto briosa, molto interessante e fantasiosa. Dopo Fred Hirsch siamo arrivati all'ultimo pezzo della serata e diamo spazio di nuovo all'Italia, in questo caso a un cantante. Si tratta di Marco Giuliani, che si è misurato con la poesia di Luigi Tenco. Ha pubblicato un CD intitolato Tencolor, pubblicato dalla Gemini Music, e l'ha fatto insieme a Bruno Montrone, a Vincenzo Gentile, Nico Catacchio e Fabio Delle Foglie. Stasera noi ci potremo ascoltare una bella interpretazione di In qualche parte del mondo. Buon ascolto con Marco Giuliani. In qualche parte del mondo, una capanna tra gli alberi, sopra una piccola spiaggia, accarezzata dal mare. In qualche parte del mondo, un bosco pieno di favole, l'ombra di un vecchio mulino e l'acqua calma del fiume. Talvolta socchiudo gli occhi e mi illudo d'essere lì sulla spiaggia oppure all'ombra di un vecchio mulino in qualche parte del mondo. Sogno altro che un angolo dove fuggire lontano dalla mia vita di sempre. Talvolta socchiudo gli occhi e mi illudo d'essere lì sulla spiaggia oppure all'ombra del vecchio mulino in qualche parte del mondo. Non sogno altro che un angolo dove fuggire lontano dalla mia vita di sempre. Bene, questo era Marco Giuliani che con amore, con rispetto ha dedicato questo CD al grande Luigi Tenco. È bello che ancora oggi sia viva la presenza, la memoria di grandi cantautori poetici e impegnati come Luigi Tenco, e che la loro poesia, la loro espressione possa ancora trovare viatico attraverso l'espressione e l'omaggio di nuovi cantanti. Marco Giuliani ha realizzato questo CD con onestà, con rispetto verso le canzoni di Luigi Tenco, ma anche con questo dolce e bel arrangiamento gradevole in jazz, con Bruno Montrone al pianoforte, Vincenzo Gentile alle tastiere, Nico Catacchio al contrabbasso e Fabio Delle Foglie alla batteria. il cantante Marco Giuliani, oltre che vivere questo progetto da vocalist, suona anche la chitarra in questo progetto Ten Color, pubblicato dalla Gemini Music. E con questo si conclude anche la puntata numero 690 di Anima Jazz. L'appuntamento come sempre a giovedì prossimo. Buon anno e buona musica a tutti da Bruno Pollacci, da Anima Jazz.